Forse un giorno ti vedrò ritornare solo, solo da me, come un tempo mi direi che io sono il tuo unico amor. Forse allora capirai che mai nessuno potrà amarti come io amo te. Tutti i caldi sogni miei scenderanno nel tuo cuore, così quando gli occhi chiuderai sentirai il tepore del mio amore. Ed allora capirai che mai nessuno potrà amarti come io amo te. Forse un giorno ti vedrò ritornare solo, solo da me. Amarti come io amo te. Forse un giorno ti vedrò ritornare solo, solo.